12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. La puntata di oggi, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, è dedicata al programma Leonardo da Vinci. Cercheremo di capire esattamente cos'è, a chi si rivolge e come fare per accedervi, insieme ad Elena Carli dello sportello Eurodesk del Comune di Venezia. Nella seconda parte della puntata avremo ospite Francesca, che ci racconterà qual è stata la sua esperienza diretta da partecipante al programma e dalla quale cercheremo di scoprire sia i lati positivi che le difficoltà incontrate nell'intraprendere un'esperienza di questo tipo. Abbiamo provato a fare una prima ricerca sul programma Leonardo e in generale gli obiettivi che si pone sono di sostenere chi partecipa ad attività di formazione ad acquisire e utilizzare conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo. Inoltre di sostenere il miglioramento della qualità e dell'innovazione nei sistemi, negli istituti, nelle prassi di istruzione e formazione professionale, di incrementare l'attrattiva dell'istruzione, della formazione professionale e della mobilità dei datori di lavoro e singoli ed infine di agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano. Nel concreto, il programma permette di effettuare un'esperienza di formazione e lavoro all'estero per un periodo in media di circa 6 mesi, con l'obiettivo appunto di facilitare l'ingresso nella realtà lavorativa di un altro paese e di arricchire in questo modo le proprie competenze professionali. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato qualche informazione generale, andiamo a scoprire esattamente cos'è il programma Leonardo con Elena Carli dello sportello Eurodesk del Comune di Venezia. Elena, benvenuta a 12 minuti. Buon pomeriggio a tutti voi. Elena, cos'è il programma Leonardo? Allora, il programma Leonardo da Vinci è un programma finanziato dalla Commissione Europea. Sostiene i progetti europei di formazione ed educazione permanente. Per educazione permanente si intende educazione degli adulti. Diciamo che lo scopo principale del programma è quello di sostenere i cittadini europei nell'acquisizione di nuove competenze e anche qualifiche che siano poi spendibili, riconosciute in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. È un programma molto interessante per quanto riguarda l'incremento della competitività da parte dei giovani sul mercato del lavoro europeo, a mio avviso. Ecco Elena, in concreto, sì, quali sono proprio le attività che il programma propone e che prevede? Allora, il programma finanzia una moltitudine di azioni. Io mi soffermerei un secondo sull'azione mobilità per incentivare la mobilità transnazionale anche tra gli ascoltatori. Sto parlando di tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per persone disponibili sul mercato del lavoro. Il tirocinio è considerato come un periodo di formazione professionale e l'esperienza di lavoro è intrapresa l'esperienza che va ad effettuare all'estero da parte di un beneficiario, cosiddetto beneficiario, che è poi il tirocinante, presso un'organizzazione partner in un altro paese. E questi tirocini, è importante dire ai radioascoltatori, che sono erogati attraverso una selezione a bando. Per verificare le opportunità bisogna consultare l'elenco delle borse disponibili sul sito dell'ISFOL. Il sito è www.programmallp.it. L'LLP è l'acronimo di Lifelong Learning Program, cioè sta per diciamo apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Questo è diciamo il programma settoriale dedicato proprio all'apprendimento, dentro questo grande contenitore, questo grande programma comunitario, ci sono diversi programmi settoriali, tra cui il programma Leonardo da Vinci. Quindi è proprio opportuno consultare il sito, perché solo attraverso la consultazione è possibile individuare i progetti adeguati al proprio profilo e alle proprie esigenze. Ecco Elena, quindi sicuramente questo è il primo passo da fare, sì. Chi è che può accedere, chi è che sì. può partecipare sì. a questo tipo di attività? Beh, innanzitutto nell'ambito di questa misura beneficiano del contributo le persone disponibili sul mercato del lavoro, ovviamente io sto parlando anche di neolaureati, questa azione, questo programma è destinato anche a loro, nonché lavoratori autonomi, diplomati, disoccupati, inoccupati, cioè tutte le persone che desiderano migliorare le conoscenze acquisite o le competenze e le competenze professionali, anche stiamo parlando di competenze professionali nuove, quindi certo, poi in un spendibili, internazionale, esatto. Certo, spendibili nel mondo del lavoro. Sì, ecco, sì. Per accedere quindi a questo tipo di esperienza e anche per avere informazioni, sì. insomma, chi ci si può rivolgere, come si deve fare? Allora, innanzitutto ci si deve rivolgere agli organismi che hanno in corso progetti di mobilità. E torniamo alla consultazione nel sito dell'ISFOL attraverso la visualizzazione dei progetti è possibile poi per l'utente finale entrare in contatto con il referente di progetto. Ciascun organismo stabilisce nei bandi di selezione la durata della permanenza all'estero e i paesi di destinazione, insieme ovviamente ai requisiti e alle date di scadenza. Quindi insomma si possono trovare tutte le informazioni poi in ogni sì. specifico bando. Sì, sì, esattamente. Elena, io ti ringrazio per essere stata qui con noi a 12 minuti e per tutte le informazioni che ci hai dato. Grazie a voi. E grazie. Ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi torniamo qui in studio con Francesca che ci racconterà la sua esperienza nel programma Leonardo. Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole. Quando piove, meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome, meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me. Così non ho paura mai, così non ho paura mai. Bene, facciamo progetti per questa nostra vita, che ha tanti difetti e a volte va in salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre grida il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole. Anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome, meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così. così non ho paura mai, così non ho paura mai, così non ho paura mai. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, oggi stiamo parlando del programma europeo Leonardo da Vinci, un'opportunità per i giovani di vivere un'esperienza di formazione e lavoro all'estero. Nella prima parte della puntata abbiamo capito esattamente come funziona e come potervi accedere e ora diamo il benvenuto a Francesca Daros che al programma Leonardo vi ha partecipato e alla quale chiederemo di raccontarci com'è andata la sua esperienza. Ciao Francesca, benvenuta a 12 minuti. Ciao Giovanna, buongiorno a tutti. E Francesca, perché hai deciso di partecipare a questo tipo di esperienza e quali erano le tue aspettative? Ok, allora, ma diciamo che l'estero è sempre stata per me un po' così, ho sempre avuto molta voglia insomma di esplorare territori fuori ecco dall'Italia e già l'avevo fatto un paio d'anni fa con facendo un Erasmus che mi ha portato in Canada. E quindi una volta laureata dopo l'università sapevo appunto che c'era questa possibilità di queste borse di lavoro e l'ho presa subito, occasione al balzo, e sono riuscita così ad andare 3 mesi a lavorare alla Camera di Commercio della Slovacca a Bratislava. Ecco, e qui poi esattamente quindi la tua esperienza in che cosa è consistita? Insomma, cioè allora, sì, ho affiancato i lavoratori italiani della Camera di Commercio, la parte italiana, nell'attività di redazione di comunicati stampa ai soci appunto della Camera di Commercio. Oltre alla redazione poi di opuscoli informativi sempre riguardo all'iniziativa della Camera di Commercio, conferenze, workshop che venivano periodicamente insomma realizzati lì. Francesca, secondo te in un'esperienza di questo tipo o per la tua esperienza quali sono stati gli aspetti positivi e se ci sono state anche le difficoltà? Ma allora, aspetti positivi tantissimi, prima di tutto già il fatto di trovarsi comunque in un posto che non è il solito, fuori di casa, con anche regole e modi di vita, modi di pensare, anche di interagire insomma con gli altri, con i colleghi, diverso, già quello ti accresce tantissimo. Poi diciamo che in particolare ho potuto anche esplorare più da vicino il mondo delle camere di commercio, come funzionano, che cosa svolgono, perché svolgono un ruolo molto importante per tutte le aziende italiane, cioè fungono proprio da base d'appoggio per tutte le aziende italiane che aspirano insomma a portare il made in Italy ecco nel mondo. Di difficoltà, ma diciamo che l'importante è avere una buona base di spirito di adattamento e poi insomma le cose vengono da sé. Francesca, quindi mi pare di capire che insomma l'esperienza la consiglieresti? Assolutamente, la rifarei oggi stesso. Francesca, grazie per essere stata qui con noi e insomma per averci grazie raccontato insomma quella che è stata la tua esperienza. Grazie, buona giornata, ciao a tutti. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Parlando di possibilità concrete di partecipare al programma Leonardo, vi segnalo alcuni bandi aperti. L'associazione Centro Studi Aurora Onlus promuove l'assegnazione di 120 borse di mobilità in 3 settori specifici di intervento: agricoltura sostenibile, energie rinnovabili, architettura ecocompatibile. I tirocini avranno la durata di 11 settimane e si potranno svolgere in Inghilterra, Galles, Francia, Spagna, Lituania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Germania e Slovenia. Per poter partecipare bisogna essere maggiorenni, non aver mai partecipato al programma Leonardo Azione PLM, conoscere una delle lingue dei paesi di destinazione, non essere in corso di studi universitarie e post-universitarie possedere titoli di studio connessi alla Green Economy. Dal 1 marzo al 30 aprile 2013 si potranno presentare le prime candidature per partenze da realizzare entro il 30 settembre 2013. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.csaurora.it o contattare direttamente l'associazione Aurora al numero 091 8162 306. La Sapienza, Università di Roma, con il progetto Unifarma Graduates, offre 82 borse di mobilità presso centri di ricerca europei, pubblici e privati, chimici, farmaceutici e biotecnologici. I tirocini avranno la durata di 24 settimane e dovranno iniziare entro il 30 ottobre 2013. Vi segnalo alcuni requisiti richiesti, tra cui età inferiore ai 28 anni, conoscere bene la lingua inglese ed essere laureati in una delle seguenti discipline: biologia, biotecnologie agrarie o industriali o mediche, veterinarie e farmaceutiche, farmacia e farmacia industriale, scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale. Le candidature vanno inviate entro il 28 marzo 2013. Per maggiori informazioni potete visitare il sito dell'università www.uniroma1.it. Infine vi ricordo che nel sito dell'Informa Giovani di Mestre Venezia, veneziagiovane.info, alla sezione Europa Mondo Stage Tirocini potete trovare informazioni sui bandi Leonardo in uscita e avere informazioni più specifiche su come funziona il programma. Per saperne di più potete anche scrivere a informagiovani@comune.venezia.it. Prima di salutarvi, anticipazione sulla prossima puntata, che sarà dedicata al progetto Giovani e Stage, che darà la possibilità a 15 giovani di partecipare ad esperienze di tirocinio formativo retribuito. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.